Wah, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telespro. Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Telesforo, siete in contatto con la prova del suono di Radio 24, il nostro soundcheck che oggi vorrei dedicare completamente alla didattica musicale per ragazzi, bambini e adolescenti. Ci sono molti amici in contatto con Radio 24 che hanno mandato email con figli che mi chiedono consigli, ma dove posso mandare mio figlio a studiare musica? Qual è il tipo di approccio che bisogna avere con la musica all'inizio? Che tipo di musica posso far ascoltare a mio figlio per farlo crescere in maniera sana, farlo diventare forse più intelligente e più bravo anche a scuola? Allora, di tutto questo io vorrei parlare con due amici carissimi, che sono due esperti del settore, perché da anni insegnano musica a bambini, ai bambini e anche a bambini speciali, e vado a introdurvi il chitarrista maestro Alessandro Filindeo e la bravissima Serena Caporale. Buon pomeriggio, benvenuti a Radio 24. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Allora, sì, parliamo di didattica musicale oggi. Mi raccontate un po' dove svolgete la vostra attività, che cosa insegnate e a chi insegnate musica? Allora, io insegno musica da una ventina d'anni e attualmente sto insegnando qui in zona, nella Tuscia a Viterbo, e nello specifico a Capranica, alla Jupiter, che è una derivazione della Exodus di Don Mazzi, ed è un centro che si occupa di tante cose nel sociale, di ragazzi con difficoltà, ragazzi speciali appunto, famiglie in difficoltà, extracomunitari, e anche la scuola di musica, che poi è legata alla Luigi Ghiezzi, la scuola di musica appunto comunale del comune di Capranica. Alessandro, tu sei un chitarrista eccezionale, fai molti turni in studio di registrazione, ma da anni insegni musica. Qual è il tipo di approccio che bisogna avere con i ragazzi, soprattutto i più giovani, i bambini? Io sono venuto a trovarti a scuola e ho visto che hai proprio ragazzini che hanno anche 10-12 anni. Qual è il tipo di comunicazione che bisogna avere con questi ragazzi per la musica? Ma innanzitutto io, come dire, ho fatto tesoro del suggerimento di un grandissimo chitarrista che voglio citare, è stato mio insegnante, Franco Ventura, il quale mi disse: i ragazzini devono suonare immediatamente, quindi è inutile avere degli approcci molto teorici e molto accademici. Dopodiché la difficoltà è quella di cercare di fargli capire perché una musica può essere più formativa di un'altra, perché qui devi ovviamente lottare contro quello che gli viene propinato dalla televisione oppure dai mezzi di informazione, mentre invece noi sappiamo che la musica, come dire, bella, senza voler essere settari, è un'altra. E quindi farli suonare e poi mettere dentro qualcosa di didattico, qualcosa di accademico, però per prima cosa farli suonare insieme, la musica d'insieme, l'esecuzione dei pezzi. Come si scopre il talento nei bambini? Cioè, capisci subito, Serena, che in qualche ragazzo c'è qualcosa di speciale nel rapporto con la musica? Ma secondo me tutti hanno qualcosa di speciale quando ascoltano la musica, basta guardare la loro reazione quando gli fai sentire qualche cosa di particolare. L'importante è trovare questa peculiarità, questa specialità. Ecco, una peculiarità che trovò moltissimi anni fa, vi sto parlando del 1963, un signore chiamato Berry Gordy, che era capo della Motown Records, che incontrò un ragazzino nero, speciale, non vedente, con la sua armonica a bocca. E qui vado ad ascoltare con voi la prima registrazione discografica di Little Stevie Wonder. 1963, aveva 13 anni, e questa è la seconda parte della prima esibizione live di Stevie Wonder con il suo brano intitolato Fingertips, e noterete subito l'approccio che ha con la sua armonica, il talento di Stevie Wonder anche nel coinvolgere il pubblico in questa particolare versione di questa sua prima composizione dal vivo. Stevie Wonder al soundcheck di Radio 24. We'll be right back. 1963, dal vivo Little Stevie Wonder aveva 13 anni con la sua armonica, ma già una grinta da vendere, e poi con la sua vocalità è diventato un grande maestro, un ispiratore per tutti coloro che vogliono approcciarsi ancora oggi con l'R&B, con la soul music. Stevie Wonder al soundcheck di Radio 24 in questa puntata dedicata alla didattica musicale per i bambini, gli adolescenti e anche a bambini speciali. Ne stiamo parlando e ne parleremo ancora con Serena Caporale e Alessandro Filindeo. Restate in contatto con il soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Parlando di ragazzi, ragazzini con grandissimo talento, non potevo dare il via a questa seconda parte del soundcheck di Radio 24 se non ascoltando la voce di Michael Jackson, giovanissimo, con i suoi fratelli Jackson 5, in un successo qui rivisitato in chiave remix di I Want You Back. E stiamo parlando di didattica musicale, del rapporto che devono avere i più giovani con la musica, insieme a Serena Caporale e Alessandro Filindeo, musicisti, professionisti, ma che da anni si dedicano all'insegnamento della musica. Serena, tu sei una professionista, sei una cantante affermata, lavori anche in televisione, perché credo tu faccia ancora parte del cast dei professori d'orchestra che accompagnano i ragazzi lì ad Amici, e poi ogni tanto sei costretta a lasciare le aule della tua scuola per fare tour internazionali come cantante nel grande organico di Andrea Bocelli. Assolutamente sì, ho questo privilegio di vivere, diciamo, diverse sfaccettature che la musica offre, cioè la possibilità di poter viaggiare e di fare musica, ma anche di stare a stretto contatto con le scuole e quindi con la realtà dei ragazzi che vogliono approcciarsi, avvicinarsi a questa cosa meravigliosa. Tu sei diplomata in canto, hai studiato al conservatorio, sei una professionista, sei una cantante molto preparata. Che cosa insegni ai bambini e soprattutto qual è il tipo di approccio con i bambini speciali? Beh, innanzitutto ti ringrazio. Io insegno da un po' e ho il contatto appunto con questi ragazzi speciali, che noi definiamo speciali, perché in realtà i diversi siamo noi, ecco. Io vado lì, insomma, quell'ora, quella settimana apprendo tante cose. Il mio contatto con loro è straordinario, perché esco sempre più ricca, ecco, arricchita da qualcosa, da un gesto, da uno sguardo, da un atteggiamento di ognuno di loro. E, cantiamo, ecco, noi abbiamo il privilegio di avere uno strumento immediato, che è quello del canto, e che quindi tutti posseggono, stonati e intonati, ma che ci dà il diretto contatto con la musica. Cantiamo, giochiamo, abbiamo tessuti di vario colore che abbiniamo a delle canzoni, coloriamo, mettiamo su carta quello che la musica ci trasmette, ed è un'ora, la migliore ora della settimana. Alessandro, qual è la prima lezione di musica, il primo incontro con i ragazzi? Di cosa parli? Allora, io cerco di capire quali sono i loro gusti musicali, perché è diventato veramente assolutamente impossibile, nonché inutile, imporre qualcosa dall'alto. Loro arrivano che hanno già il pieno dell'ascolto, perché non vorrei fare l'anziano come noi, in cui dovevamo comprarci gli LP, tornare a casa. Loro hanno 10.000 pezzi dentro il telefono, magari non li conoscono tantissimo, non hanno ben capito come funzionano, e allora io cerco di fare in maniera che loro si possano interessare ad eseguire questi pezzi con lo strumento, perché all'inizio c'è un certo sforzo, comunque è molto più comodo mettere le cuffie e programmare un brano. E tutto sommato io ho la fortuna di insegnare la chitarra, che è uno strumento molto immediato, per cui diciamo che già alla prima lezione spero di farli andare via con 3 accordi che consentono loro di incominciare a produrre, come dire, in maniera autogena qualcosa che prima invece subivano solamente attraverso le cuffie. Quindi, se un tempo la didattica imponeva ai ragazzi, magari quelli del conservatorio, un anno e forse più di solfeggio parlato, che significa che quindi i ragazzi non capivano gli intervalli, non capivano il suono delle note finché poi non c'era il rapporto con lo strumento. Oggi invece i ragazzi devono suonare subito perché è quello che vogliono fare ed è quello che fanno i ragazzi da sempre, ragazzi americani, magari ragazzi afroamericani che frequentano le chiese, quella battista, quella evangelica, quelle della scuola del gospel, dove si sono formati i migliori protagonisti dell'attuale scena rhythm blues e soul, ma da sempre, da Aretha Franklin fino ai Take Six. Take Six sono una delle formazioni più accreditate per quel che riguarda la vocalità a cappella e qui ve li propongo in un brano originale ma dal sapore assolutamente gospel intitolato Sunshine. Take Six al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Sempre in contatto con il soundcheck di Radio 24, Gegè Telesforo con amici qui in studio, Serena Caporale, Alessandro Filindeo, maestri di musica, vivono di musica ormai da tantissimi anni. Serena, l'abbiamo detto, è una cantante, una professionista, gira il mondo anche accompagnando le vicende musicali di Andrea Bocelli, quindi su grandi palcoscenici, accompagnata da orchestre sinfoniche importanti, grandi organici. Alessandro, chitarrista, insegna chitarra in questa scuola che si chiama Jupiter, dove scuola frequentata anche da bambini speciali. Quando devi parlare di ritmo con questi bambini, di che cosa fai? Qual è il primo approccio che hanno con il ritmo questi ragazzi? Beh, il ritmo è la cosa più immediata e quindi le mani. Il primo istinto è quello di battere le mani. Oh, finalmente sento dire una cosa giusta, battere le mani, perché io la prima lezione di musica che ho visto fare negli Stati Uniti a una classe di bambini, avevano 3-4 anni questi bambini, quindi proprio della materna, era come si battono le mani a tempo. È difficilissimo, però è un istinto. Io penso che sia l'istinto primordiale che ci porta proprio a battere le mani, ma anche qualsiasi cosa, qualsiasi cosa si abbia tra le mani, ecco. È il modo per entrare in contatto con quello che si sente. E a volte si raggiungono veramente delle eccellenze. Ti raccontavo prima di un nostro amico, ragazzo speciale, che è Franco, che si è lasciato trasportare dall'entusiasmo, rivelando un grandissimo talento per il ritmo, perché si è poi seduto alla batteria e ha portato il tempo con una precisione, con un entusiasmo e con uno swing che ci ha sconvolti tutti. E quindi è in queste occasioni che si scoprono anche delle cose pazzesche, come dei talenti nascosti. Gli amici a casa si staranno chiedendo: sì, ma come si impara a battere le mani a tempo? Intanto io credo che noi abbiamo un gap proprio nel DNA, perché veniamo da un paese, siamo cresciuti in un paese dove le mani si sono sempre battute in battere sul primo e sul terzo movimento, perché veniamo dall'operetta, veniamo dalle marcette militari, dalla tarantella che pur avendo un ritmo irresistibile porta automaticamente a battere le mani sull'uno. Invece negli Stati Uniti la prima cosa che si fa è insegnare ai ragazzi a battere le mani sul secondo e il quarto movimento, quello che potremmo definire a volte il levare. È complicato fare ciò? Ma guarda, è complicato sì, superare il problema del battere, cioè quello che forse arriva anche dall'ascolto delle bande musicali e in generale effettivamente da un retaggio tradizionale. Dopodiché è complicato anche far capire che non è solo una sequenza ininterrotta di battiti, ma ha una divisione, i cosiddetti quattro quarti, i due quarti, i tre quarti, per cui si tratta di un 2 e un 4 all'interno di una scansione. io suono uno strumento e quindi le mani sono impegnate in qualcosa, per cui il primo approccio è quello di far suonare una ritmica, anzi non una ritmica, un tempo preciso, una scansione in quarti, per cui si cerca di andare quantomeno in sincrono, dopodiché di accentare il secondo e il quarto. E allora torniamo alla musica con questa anteprima, che ormai non è più un'anteprima perché il disco è stato pubblicato ieri in tutto il mondo, lo troverete anche su iTunes, questa bellissima operazione di Robert Glasper con Black Radio 2, qui ospite del brano Jesus Children, la voce profonda, piena di sentimento di Leila Hathaway, figlia di Donny Hathaway, figlia d'arte, che ci fa capire che la voce deve emozionare. Hello Jesus, Jesus children, Jesus loves you, Jesus children. Hello children, Jesus loves you, of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you hearing, praying, feeling what you're saying? E siamo ai saluti, grazie a Alessandro Filindeo e Serena Caporale per la visita, vi auguro ancora tantissimi successi con la musica e con la didattica, perché fate del bene proponendo le vostre nozioni di musica a bambini, a adolescenti e ai bambini speciali. Grazie della visita. Grazie a te Gege, è stato un piacere. Grazie Gege, un salutone. Vi lascio con un'altra lezione di musica, perché se la prima lezione da apprendere è il senso del ritmo e quindi come battere le mani a tempo, la seconda poi è un po' più complicata, ma è la legge del blues, il senso del blues, la prima struttura ritmica e armonica che tutti i musicisti contemporanei devono apprendere. Qui ce la insegna Quincy Jones, che ce la propone in chiave contemporanea con questo classico del suo repertorio intitolato Soul Bossa Nostra con Naturally 7 e Ludacris. Ci vediamo presto, anzi ci risentiamo con la musica del soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica.